Sì. GR24, il sole 24 ore. Concordia ha interrogato il comandante, aperti i varchi con l'esplosivo per le ricerche. Taxi in marcia verso Roma, oggi l'incontro con il governo. Giustizia, Severino in Parlamento, la lentezza ci costa un punto di PIL. Nuovi attacchi alle sedi di Equitalia a Roma e Napoli. Buona giornata dalla redazione e da Valentina Furlanetto. In primo piano le ultime notizie sulla tragedia della Costa Concordia, in diretta dall'isola del Giglio, Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, Valentina, buongiorno. I fronti sono due, qui l'isola del Giglio, dall'altra parte Grosseto. Da una parte la corsa contro il tempo per evitare che il disastro diventi ancora peggiore e dall'altra parte del mare l'accertamento delle responsabilità per quello che è ormai chiaro, è il peggior naufragio della storia italiana. Sulle due sponde del mare si sviluppa questa nuova giornata di piena emergenza. Qui si stanno ripetendo da questa mattina le esplosioni intorno alla Costa Concordia per aprire nuovi bar, nuovi passaggi ai sommozzatori in cerca dei 28 dispersi. Il numero è stato ufficializzato poco fa dalla prefettura di Grosseto incrociando i vari dati. Purtroppo il gruppo più numeroso è quello dei tedeschi, sono 13 quelli che mancano all'appello, 6 invece gli italiani di cui si sono perse le tracce, compresa Denise, la bimba di Rimini di 5 anni che era col padre. Poi ci sono le due amiche siciliane, un musicista di Alberobello e una signora di Biella. La tragedia dei morti si somma però anche la grande paura per l'ambiente. Un vertice in prefettura ha affrontato anche la questione dello svuotamento del serbatoio della nave di cui si occuperà una ditta olandese. E per prevenzione sono state già sistemate delle panne intorno al relitto per assorbire l'eventuale carburante. Per capire l'entità del disastro che sarebbe nel caso in cui il carburante finisse in mare, ad ottobre, quando in Nuova Zelanda 200 tonnellate inquinarono 20 chilometri di costa, qui le tonnellate sono 2000. E se qui dunque al Giglio si va avanti, dall'altra parte del mare, dunque a Grosseto, si scandagliano le responsabilità dell'accaduto con l'interrogatorio di convalida del fermo per il comandante Francesco Schettino, interrogatorio che è in corso. Tra le domande a cui dovrà rispondere anche il perché quell'ordine di evacuazione sia stato dato così tardi, 15 minuti dopo anche l'effettivo inizio delle operazioni di evacuazione della stessa nave. Il comandante in quegli stessi istanti era al telefono con un ex comandante sempre della Costa Concordia, che è un isolano, che è stato sentito ieri anche dalla procura, che è il comandante Pario Palombo, che abbiamo raggiunto al telefono. Allora, io ho già parlato con la procura e quindi ho risposto a domande generiche e tecniche. Quello che dovevo dire l'ha detto, non ero là, come sapete, ero qui a Grosseto. Basta, io non voglio parlare, è stato rimangato il mio passato, mi ha dato fastidio. E chiaramente il suo silenzio è anche dovuto al fatto che sia stato detto che probabilmente voleva essere un omaggio a lui, quello che si chiama un inchino, il fatto di far avvicinare così tanto la nave. Ultimo elemento, proprio per la polemica, per la questione dell'avvicinamento delle grandi navi da crociera alle coste italiane, solo poco lontano da qui, all'Elba, questa stessa questione era stata affrontata e i comuni dell'Elba avevano deciso di stabilire dei limiti al di là dei quali le navi non potessero avvicinarsi. E per ora dal Giglio è tutto. Grazie alla nostra inviata Raffaella Calandra. Il sito del Corriere della Sera ha diffuso l'audio della telefonata tra la capitaneria di porto e il comandante Schettino. Allora sentiamone un passaggio. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina, lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono, è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento... inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Faccio passare l'anima dei guai. Comandante. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinandoli? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? Quale... E buio vuole tornare a casa? Ma qua... Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare. Quante persone ci sono e che bisogno hanno? Ora! Sono il comandante in seconda. Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Siamo salite tutte e due allora. In tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? E Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristini. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Guarda, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è installata lì. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo, va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene, comandante, sto andando. Cada, subito. Sulla tragedia della Costa Concordia, Simone Spezzi ha intervistato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. In relazione alla quantità di carburante che è stivato nei serbatoi, c'è un elevato rischio di disastro ambientale qualora i serbatoi si dovessero rompere, cioè non fosse possibile svuotarli e trasferire il carburante su un'altra nave. La situazione al momento teoricamente consentirebbe procedure di svuotamento. Prima di procedere allo svuotamento è necessario completare le operazioni per la ricerca di eventuali superstiti e queste operazioni richiedono che la nave sia tenuta in, come dire, nell'equilibrio attuale. È evidente che lo svuotamento dei serbatoi potrebbe compromettere questo equilibrio, per cui per il momento si sta lavorando alla definizione del piano di intervento senza però procedere. Si era diffusa la notizia che già iniziavano a vedersi delle chiazze di carburante. Lei ha chiarito poi che non si tratta di carburante. Di che cosa si tratta? Ah, questo non lo sappiamo, sai, in una nave di fluidi ce ne sono molti, per cui... Potrebbe essere un fluido che viene dallo schiacciamento delle scialuppe di salvataggio piuttosto che dalle cucine, piuttosto che dalla rottura di tubi interni. Al momento quindi esclude la rottura dei serbatoi di carburante della nave? Al momento non abbiamo nessun segnale che i serbatoi siano stati compromessi, siano stati lesi. Intanto anche la stampa estera sta dando largo spazio all'incidente. La registrazione della telefonata tra il comandante della nave Francesco Schettino e la Guardia Costiera figurano nelle prime pagine dei principali quotidiani internazionali. L'edizione europea del Financial Times apre sul naufragio e punta l'attenzione sull'avvertimento giunto dall'ufficio dell'ONU che si occupa degli standard per la navigazione. Il quotidiano francese Le Monde pubblica sul suo sito internet la trascrizione della conversazione tra il comandante Schettino e la Guardia Costiera. Nei minuti successivi dell'incidente, ricordandone l'epilogo, l'ammutinamento a bordo, con gli ufficiali della nave che di fronte alle esitazioni del comandante decidono di affidarsi al suo vice. Sulle Figaro invece si sottolineano i timori per il rischio ambientale. Grande risalto anche su tutti i quotidiani tedeschi. Il Süddeutsche Zeitung in particolare punta la sua attenzione sulle difficoltà nelle operazioni di soccorso, con il relitto in leggero movimento e il mare grosso previsto nei prossimi giorni. Il Frankfurter Allgemein riferisce invece dei passeggeri tedeschi ancora dispersi. Un errore della compagnia in discussione dopo il disastro è invece il titolo del New York Times, mentre lo spagnolo Il Mundo parla di una tragedia annunciata su Facebook. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commento di Dario Ceccarelli sull'immagine internazionale del nostro paese dopo questa tragedia. Ci mancava questa della nave, ripiegata come una balena impazzita sugli scogli, la foto che rimbalza nel mondo con quel capitano poco coraggioso, simbolo di una pessima classe dirigente, che sembra inventato da Carlo Verdone per immortalare i nostri vizi da cinepanettone. La superficialità, il cinismo, la paura di assumersi le responsabilità, il si salvi chi può e chi se ne frega degli altri. Solo che non è un film, qui ci sono morti, dispersi, un possibile disastro ambientale che si accanirebbe in una zona già ferita dalla cattiveria del tempo e dalla stupidità dell'uomo. Altro che taglio di rating, altro che spread, qui nei monti, nel fondo salvastati, possono cancellare questa macchia che si aggiunge alle precedenti, macchia su macchia, di un intero paese. Tanti comandanti schettino che devono risalire a bordo per salvare una nave che da un pezzo sta andando alla deriva. E chiudiamo qui questa lunga pagina dovuta alla tragedia della Costa Concordia, ricordandovi che alle 13.30 anche la trasmissione Italia in Controluce sarà dedicata proprio all'incidente davanti all'isola del Giglio, con inviata Raffaella Calanda, approfondimenti e interviste. Concordia ha interrogato il comandante, aperti i varchi con l'esplosivo per le ricerche. Taxi in marcia verso Roma, oggi l'incontro con il governo. Giustizia, Severino in Parlamento, la lentezza ci costa un punto di PIL. Nuovi attacchi alle sedi di Equitalia a Roma e a Napoli. Ora ci occupiamo, come dicevamo, di economia, dei rendimenti dei BTP e delle borse con Valeria De Rosa. Buongiorno ancora. Buongiorno a te Valentina e ai nostri ascoltatori. Allora, partiamo subito dal mercato dei titoli. Come abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa mattinata, continuano ad allentarsi le tensioni su tutta la curva. In questo momento, per quel che riguarda il differenziale BTP Bund a 10 anni, siamo a 469 punti base. Per quel che riguarda invece, anzi 467 proprio in questo istante, per quel che riguarda invece i titoli a 2 anni, dobbiamo riportare che nel corso della mattinata i rendimenti sono scesi al di sotto del 4%, non accadeva da settembre scorso. Veniamo ai mercati finanziari, resta tonica la seduta anche se ritracciano leggermente i listini. Parigi guadagna l'1,37%, Francoforte forte l'1,81, Londra mezzo punto percentuale. A Milano il FTSE MIB e il FTSE All Share guadagnano l'1,3% circa. Sul listino principale il miglior titolo resta Unicredit, più 4,3%. Il fondo di Abu Dhabi intende sostenere attivamente l'aumento di capitale e salire a oltre il 6% nell'istituto di credito. Bene anche i titoli industriali, Enel guadagna il 2,5%. Ben intonata resta anche Fiat, più 2%. In fondo al listino invece scivola la Banca Popolare di Milano che cede l'1,4%, male anche Mediaset che cede l'1,2% circa. Sul fronte dei cambi, 1,2793 in questo momento l'euro sul dollaro, e per i mercati è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. Ora continuiamo a parlare di economia, in particolare di quella cinese, che è rallentata, si fa per dire, al 9,2% nel 2011 secondo l'agenzia Nuova Cina. E il commento allora di Alberto Forchielli. I dati annunciati su PIL, investimento e consumi sono leggermente migliori delle attese, i dati cinesi dell'ultimo trimestre. Le borse hanno reagito con forti rialzi, in particolare Shanghai e Hong Kong. Comunemente si crede che questi rialzi siano dovuti a ai dati migliori delle attese, e invece no, i dati sono comunque negativi visti dal mercato, e questi fanno presagire che il governo cinese sia obbligato ad adottare nel corso dell'anno una politica economica molto più espansiva, sia sotto l'aspetto monetario che sotto l'aspetto fiscale, ridando fiato a moltissimi settori ancorati al settore immobiliare, in questo momento sono nelle secche con grandi decrementi. Quindi la speranza è tutto legato al fatto che un dato negativo, comunque negativo, faccia cambiare idea al governo cinese. Il governo lavora al decreto sulle liberalizzazioni, mentre alcune categorie per arrivare ad una decisione definitiva sul da farsi attendono di incontrare il governo. Oggi i tassisti saranno ricevuti a Palazzo Chigi. In diretta Andrea Viali, buongiorno Andrea. Sì, è così, a Roma si preannuncia un pomeriggio che potrebbe essere caldo sul fronte delle liberalizzazioni, perché come dicevi, dopo le proteste della scorsa settimana alle 18 i rappresentanti dei tassisti saranno a Palazzo Chigi per incontrare il governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Strano, la categoria, lo ricordiamo, ha già annunciato uno sciopero nazionale per il 23 gennaio contro le misure allo studio dell'esecutivo, e in attesa dell'incontro prosegue la sua mobilitazione. A Roma sono in arrivo anche un centinaio di tassisti napoletani, le auto bianche si stanno raggruppando al Circo Massimo, nel pomeriggio poi è previsto un sit-in a Piazza Santi Apostoli, da qui i tassisti seguiranno gli sviluppi dell'incontro di Palazzo Chigi, incontro nel quale i loro sindacati porteranno una serie di proposte alternative sperando in una marcia indietro del governo, in particolare sull'aumento delle licenze. In caso di una risposta negativa da parte dell'esecutivo, il timore naturalmente è quello di nuove tensioni e blocchi del traffico. Staremo a vedere. Grazie ad Andrea Viali, appunto staremo a vedere e vi daremo nuovi aggiornamenti. Oggi intanto si riuniscono le segreterie dei sindacati. In collegamento Vincenzo Miglietta, buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, l'appuntamento è per il pomeriggio con le segreterie unitarie di CGIL, CISL e UIL. Camusso, Bonanni ed Angeletti rilanciano con una posizione unitaria l'invito al governo ad aprire una fase di reale concertazione. I sindacati chiedono di fatto a Monti di andare oltre la pur necessaria riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, temi che secondo i tre leader vanno inquadrati nel contesto più ampio dello sviluppo e dell'occupazione, senza scordare la priorità della crescita a partire dal dossier liberalizzazioni, quindi una riforma fiscale nel segno dell'equità e le pensioni che i sindacati non considerano un capitolo chiuso. Le segreterie unitarie di questo pomeriggio sono quindi chiamate a tradurre in un documento tecnico l'accordo già raggiunto venerdì scorso dalle tre confederazioni, linea questa condivisa anche da Centrella dell'UGL. A nessuno sfugge poi il valore simbolico della riunione di oggi. Le segreterie unitarie non venivano convocate da oltre tre anni, l'ultimo precedente è del 7 maggio 2008, quando fu trovato l'accordo per una posizione comune da tenere con Confindustria sulla riforma del modello contrattuale. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta, ora parliamo di giustizia. Secondo la Banca d'Italia, l'inefficienza della giustizia civile italiana può essere misurata in termini economici come pari all'1% del PIL. E questo dato non deve meravigliare. Troppi processi da smaltire, troppi errori giudiziari e nelle carceri troppi detenuti in attesa di giudizio. È un bilancio fatto di molte ombre e poche luci, quello del ministro della giustizia Paola Severino, a preoccupare soprattutto l'enorme arretrato in tema di processi, 9 milioni, le cause da smaltire, 5 milioni e mezzo nel civile, 3,4 nel penale. Mentre i tempi medi non scendono sotto i 1753 giorni per il penale e salgono addirittura a 2645 per il civile. Esiste poi una montagna di procedimenti per ingiusta detenzione o errore giudiziario per un esborso pari a 46 milioni di euro nel 2011 e un boom di richieste di indennizzo per causa lumaca, per le quali lo Stato ha dovuto pagare ben 84 milioni di euro lo scorso anno. Infine, il capitolo carceri. La situazione è angosciante, dice Severino, sottolineando come oltre 28.000 detenuti siano in attesa di giudizio, il 42% dell'intera popolazione carceraria, un'anomalia tutta italiana. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nuovi attacchi alle sedi di Equitalia a Roma e Napoli, il servizio. Vigilanza rafforzata su Equitalia. Da poco più di un mese gli attacchi alle sedi si sono moltiplicati. Roma, Napoli, Milano, Modena, Torino, Foggia. Gli ultimi ieri sera a Napoli e Roma. Nel capoluogo partenopeo tre ordigni sono esplosi presso la sede principale di Corso Meridionale, provocando fortunatamente solo danni ai vetri e alle saracinesche. Contro la stessa sede il 12 dicembre scorso era stato lanciato un potente petardo. Nella capitale, invece, davanti agli uffici di via Aurelia sono stati collocati quattro manichini con la corda al collo. L'associazione di destra Roma Nord ha rivendicato il gesto come azione dimostrativa contro quelli che ha definito i metodi intimidatori e violenti di riscossione coatta. Il timore degli inquirenti è che questa escalation di attacchi firmati da varie sigle eversive possa alzarsi ulteriormente di livello. Chiunque può armare le proprie mani, si legge nell'appello alla mobilitazione lanciato dalla Federazione Anarchica Informale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex assessore regionale lombardo Massimo Ponzoni, nei confronti del quale è stata emessa ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, si è da poco presentato in procura a Monza. Uno dei due marocchini che mercoledì 4 gennaio hanno ucciso Zhu Zeng e sua figlia Joy, di 6 mesi, è stato ritrovato morto a Roma, ma è giallo su come sia morto. L'hanno trovato impiccato, appeso ad un gancio a 3 metri di altezza in un casolare in via Boccea a Roma. La sua morte risalirebbe a 3-4 giorni fa. Si sarebbe tolto la vita così Mohamed Naziri, di 30 anni, uno dei due marocchini presunti killer del commerciante cinese e di sua figlia, a Torpignattara. Era braccato da 12 giorni. Prima di impiccarsi avrebbe anche ingerito del veleno per topi. Accanto al cadavere, oltre alle tracce di veleno, un telefonino. Esaminandolo sarà forse possibile trovare le tracce che conducono all'altro marocchino, ancora latitante, per cui è stato emesso il decreto di fermo per la rapina di Torpignattara. E se al momento per la procura non ci sono dubbi che Naziri si sia suicidato, nel quartiere qualcuno tira in ballo la mafia cinese. Naziri, che aveva precedenti per rapina, furto e reati contro il patrimonio, è stato identificato dalle impronte digitali. E intanto continuano le ricerche dell'altro marocchino più giovane di Naziri, la cui identità è ancora segreta. I due killer di Torpignattara avevano già fatto altre rapine, almeno una dozzina, e non era la prima volta che si accanivano contro un cinese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due giovani di 25 e 30 anni di Aosta sono stati arrestati dalla Polizia Municipale di Torino con l'accusa di aver investito e ucciso lo scorso 3 dicembre un bambino di 7 anni mentre attraversava la strada con la famiglia sulle strisce pedonali. Un'evasione fiscale di oltre 50 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Tortona, in provincia di Alessandria, che ha denunciato due imprenditori del settore del commercio di autovetture per non aver presentato per alcuni anni le dichiarazioni dei redditi e l'IVA. E ora la rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Di tante cose si parla poco, e invece sono le più importanti. Altro che Cortina. Così ci ha detto pochi giorni fa Luigi Magistro, numero 2 dell'Agenzia delle Entrate, segugio da tartufi dei grandi e piccoli evasori fiscali. E di cosa in particolare si parla poco o nulla? Beh, ad esempio di un paese a un passo da casa nostra dove vige tuttora un segreto bancario strettissimo. Non la Svizzera, ma l'Austria, di cui appunto nessuno o quasi si interessa. Il segreto bancario austriaco è ancorato nell'articolo 38 della legge bancaria, una legge che gli austriaci si tengono ben stretta. Tanto che Vienna ha reagito con molto nervosismo alla proposta della Commissione europea di migliorare lo scambio di informazioni fra i relativi Stati membri al fine di combattere l'evasione fiscale. Intanto gli organi che monitorano la situazione valutaria dell'Italia hanno fatto sapere negli ultimi giorni che i depositi dell'ultimo anno si sono ridotti di una ventina di miliardi. Il sospetto è che migliaia di super benestanti italiani, spaventati dal rigore del governo e dalla fine del segreto bancario, stiano nascondendo i loro soldi oltre confine, non solo a Lugano, ma magari a Innsbruck, a 2 passi dal produttivo Veneto, ad esempio. A poco più di 24 ore dalla cerimonia di premiazione dei Golden Globes, il mondo del cinema comincia il countdown verso i BAFTA. Il 12 febbraio, infatti, la British Academy of Film and Television Arts consegnerà i prestigiosi premi, gli equivalenti britannici dei più celebri Oscar. Annunciate questa mattina le nomination, padrone assoluto The Artist, che si è recentemente aggiudicato 3 Golden Globes e che ha totalizzato ben 12 candidature ai BAFTA, una in più del film di casa La Talpa. È tutto per questo GR curato da Daniele Biacchessi, in regia Roberto Scaltritti, al microfono Valentina Furlanetto. Il prossimo appuntamento alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.